just why. Sorry, sorry, sorry, sorry that I know last night. 10 days in seven with a girl named Flood. Then I just remembered had a date with her. Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono, come sempre, il vostro Jean-Luc. Nuova intervista, questa volta da Reggio Emilia arriva una band che presenta il primo disco. A voi la parola, ragazzi. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio RCS, noi siamo gli Elizabeth, veniamo da... sente l'accento anche diverso, veniamo da Scandiano, Reggio Emilia. Io sono Matteo e di fianco a me c'è mio fratello Marco. Ciao, ciao a tutti. Rispettivamente io sono la tastiera, Marco è il cantante e chitarrista della nostra band, gli Elizabeth. Mancano due ragazzi che li salutiamo, che sono Francesco e Michele, che sono batteria e basso. Con gli Elizabeth una prima parte dedicata al beat inglese degli anni 60 tra formazioni note e meno note di quel periodo. Prima canzone era degli Easy Beats del 1966 dal titolo Sorry, band seminale per il rock australiano di cui molti dimenticano l'esistenza. Che ne dite? Beh, guarda, io li conoscevo per... avevano un pezzo, si chiamava Friday. Oh My Mind. Esatto, io li conoscevo per quel pezzo lì. Sorry ce l'avevo presente, però in realtà è un piacere riascoltarsela. È una gran band, cioè è un'ottima band. Sono delle realtà che ormai secondo me si stanno perdendo qui da noi. Cioè raramente si ascoltano questi pezzi, secondo me. Ed è un peccato. Anche la modalità no, in infatti... cui adesso si fanno i pezzi diversa. E a me sinceramente piace questa. Quella era molto più garage, ecco. Sì, esatto. Sì, è molto più sincera come modalità. Quando inizia la storia degli Elizabeth e perché avete scelto questo nome? Beh, guarda, la storia è iniziata parecchio tempo fa. Nel senso che lui è mio fratello, perciò diciamo che se siamo nati in casa potremmo persino fare questo collegamento. Però al di là di questo, come band tutti e quattro saranno più o meno 5 anni che suoniamo insieme come Elizabeth. Ma esatto. Che più o meno a gruppi di o due o tre, oppure anche tutti e quattro abbiamo collaborato con degli altri cantanti dalle nostre zone e delle altre realtà, e quindi è almeno secondo me quasi una decina d'anni almeno che suoniamo insieme. Sì. Tra occasioni le più svariate, ecco. Però la domanda era anche perché ci chiamiamo lì? Elizabeth perché perché guarda, noi siamo dei fanatici di Weller, degli U, del panorama inglese, allora dell'Inghilterra, esatto. L'idea era perché non dedicare una band alla regina Elisabetta, e allora abbiamo preso il nome Elizabeth in questo modo. sostanzialmente la regina, ecco. Infatti il nostro ultimo video, che adesso uscirà, siamo andati a girare a Londra, tanto bene, insomma, dai, per rimanere in tema. E proseguiamo con gli Yardbirds, formazione seminale per il futuro del rock, in cui sono passati tre dei più noti chitarristi inglesi, e li riascoltiamo dal disco Roger the Engineer del 1966 con Over, Under, Sideways, Down. Formazione storica con un sound originale quasi inimitabile, che ne pensate? Beh, guarda, da chitarrista qua parlo io. Vai, vai, vai. Però direi che, insomma, questa era la band di Clapton, Page e Jeff Beck, no? Esatto, nelle varie fasi, esatto, della sua storia, ecco. Poi se non sbaglio, adesso qua magari dirò sicuramente la cagata, però secondo me qua c'era Jeff Beck, no? Sì, c'era, okay, Jeff Beck. E tra le altre cose, secondo me, e cominciava a entrare Jimmy Page. Esatto, esatto, che secondo me era qui, no? Più o meno, che lui è arrivato prima al basso, dopo dal basso l'hanno passato alla chitarra. Esatto, sì, Jimmy Page. Secondo me è un'ottima, cioè, da questa band qui è incredibile, sono usciti tra i migliori chitarristi che ci possano, che siano mai esistiti, ecco. E poi il passaggio, diciamo, quello dopo con Jimmy Page, secondo me avevano anche fatto un tour che si chiamavano ancora Yardbirds, una roba del genere. Yardbirds. Esatto, che era in realtà già il Led Zeppelin, perciò, cioè, sì, per, sì. Uno deve, è importantissimo conoscere prima questi, appunto, dei Led Zeppelin, per capire il funzionamento di questa band. Magari in particolar modo l'ultima parte, sì, con, sì, Jimmy, esatto, Page. Esatto, esatto. Però comunque già anche qui è, cioè, il, cioè, Jeff Beck è comunque un chitarrista della Madonna, cioè anche i suoni che anche il suono qua di chitarra era cioè molto fuzz e roba del genere, spaccava, cioè. Vostre esibizioni come sono andate e quali le reazioni del pubblico? Vado io. Per ora bene, per ora siamo molto contenti delle esibizioni e dei posti dove siamo riusciti a suonare. Le reazioni del pubblico sono state, direi, per noi ottime. Siamo molto contenti della cosa, anche perché quest'estate, giusto? Sì, quest'estate abbiamo partecipato al tour che ha fatto la Edison, in quanto avevamo fatto pubblicità all'Edison, ma andiamo avanti e ne parliamo dopo. E praticamente ci è capitato di suonare dopo Max Gazzè una data e un'altra sera invece prima di vabbè, di altri artisti, però magari discutendo dopo. Comunque, vabbè, il discorso era che pur andando a suonare vicino a questa gente bravissima, c'è? Che però ha un loro pubblico, magari non capisce l'altra band meno conosciuta, in realtà ci hanno chiesto bis, è piaciuto. Sta molto. Perdendo il filo del discorso, in realtà. Ah, però spero di aver dato comunque il concetto, ma siamo contenti, quindi vai pure avanti con l'intervista. E i live sono andati bene. Concludiamo dunque questa prima parte con gli Small Faces, la band di Stevie Marriott e Ronnie Lane. Nel 1967 si fa contagiare dalla psichedelia e dai nuovi effetti da studio e compone un brano storico come HQ Park che ora ascoltiamo. Dopo la pubblicità ci ritroviamo per la seconda parte di Rock Legends. Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get up, meet the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun and listen. I tell you what I'll do. What will you do? I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be cool? Why go to learn the words of who? What will we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll tears there. I tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about. Be nice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Ha! It's all too beautiful.